Diamo il benvenuto al nostro ultimo ospite, il professor Francesco Clementi, docente di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia, editorialista sul Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, professore. Professor Clementi, lei è il curatore del programma di studio e di approfondimento che si chiama Inside USA 2020, the United States Presidential Election 2020 Master Program, che è un ciclo di lezioni che seguirà appunto le elezioni americane addirittura da novembre 2019 a novembre 2020. Ce ne vuole un po' parlare? Sì, questo è un programma voluto fortissimamente dall'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia e insieme con il Centro Studi Americani e insieme con il collega Gianluca Passarelli, che è un politologo della Sapienza, siamo stati invitati in qualche modo a predisporre una piattaforma sulla quale lavoreremo in tanti, i colleghi italiani, diciamo studiosi, e anche e soprattutto colleghi stranieri americani, per cercare di favorire quello che è la cosa più importante in fondo per chi guarda oggi con attenzione all'esperienza del ciclo politico americano, cioè cogliere il senso della dinamica di queste elezioni del 2020, che saranno, e già si vede insomma all'orizzonte, si scorge all'orizzonte, delle elezioni decisive per gli Stati Uniti come al solito evidentemente, ma stavolta forse più di altre volte per il mondo. Arrivarci preparati ci è sembrata una cosa utile e ci sembra una cosa utile e importante per un paese come l'Italia, che ha un rapporto speciale con gli Stati Uniti. Questo rapporto passa però, mi faccia fare il professore, anche un po' da sano studio, senza farla troppo paludata. Ci saranno anche momenti di grande curiosità che passa attraverso i film, attraverso la musica, attraverso diciamo momenti evidentemente più laterali rispetto ai libri o alle slides, ma l'obiettivo di fondo è cogliere il senso del ciclo politico americano della questa campagna elettorale, apprezzandone fino in fondo la bellezza, la complessità e, aggiungo, la grandissima professionalità degli attori, cioè dei politici, ma di chi lavora con loro, gli staff, i giornalisti, i media in generale, e naturalmente i fundraiser, e naturalmente anche coloro che lavorano come campaigner nei singoli staff dei vari candidati. È chiaro che i candidati che naturalmente si contendono la leadership nel campo democratico sono tanti e sono molti, e quindi anche quella è una bellissima gara da seguire, ma a maggior ragione è interessante seguire la gara dal lato del presidente, il presidente Trump, che proprio ieri ha deciso di tornare in campo. Sì, l'ha annunciato proprio di fronte a una vasta platea. Sì, il nostro è un progetto interessante perché parte dall'idea di fare un appuntamento molto semplice, una volta al mese, a partire da novembre, appunto fino al novembre del 2020, il giorno nel mese del voto, il 3, fino al 3 novembre, e di offrire gratuitamente a 60 diciamo, giovani fino a 28 anni, laureandi o laureati, di praticamente un florilegio molto largo materie e di studi e campi di ricerca, perché si va dagli ambiti relativi alle scienze politiche, alla giurisprudenza, all'economia, alle lettere, alle scienze della comunicazione, la possibilità di seguire con noi questo pomeriggio, un pomeriggio al mese, cioè il venerdì dalle 3:30 alle 6:30 circa, presso il Centro Studi Americani, la possibilità quindi di seguire la campagna per le elezioni presidenziali, studiando e applicandosi e naturalmente affrontando con intelligenza e attenzione, grazie anche a importanti testimonials che già ci stanno via via dando la loro disponibilità, l'elezione presidenziale. Gli incontri sono gratuiti, vorrei sottolinearlo, è un punto molto importante perché è una grande opportunità che si offre ai cittadini italiani, agli studenti italiani, i quali addirittura però nel momento in cui insomma si impegneranno tutto questo percorso troveranno anche la possibilità, per coloro più bravi, più partecipanti, più attivi e più dinamici, di essere ospiti del governo americano per una settimana durante il periodo più importante della fase presidenziale, del voto per le presidenziali, cioè o durante il periodo delle conventions o meglio ancora proprio nell'ultima fase dell'ultimo mese, tra ottobre e novembre sostanzialmente. Seguendo da vicino, stato per stato, per il numero di stati che si riuscirà a comporre, la vita in concreto di come si fa politica a quel livello lì, nel più grande diciamo momento elettorale che il mondo conosce, che è appunto l'elezione presidenziale statunitense. Questa è una bellissima offerta, che è la prima volta che accade non solo in Italia, ma per quanto mi costa in Europa, e devo dire il fatto che l'Italia sia stata scelta dall'ambasciata americana come diciamo del luogo dove sperimentare questo grande momento collettivo di confronto, studio giocoso ma insomma anche professionale, è una grandissima opportunità di cui personalmente sono molto felice, e sono molto felice che si stanno già arrivando tante domande, a cui appunto invito a maggior ragione a presentarle. Le domande, permettetemi, scadono il 31 luglio, sì, certo. Quindi c'è tempo, ma insomma prima si iscrive meglio è, facilissimo iscriversi, basta semplicemente allegare il proprio curriculum vitae, allegare una certificazione di inglese o un'autocertificazione della conoscenza della lingua inglese e, cosa molto importante, 300 caratteri di spiegazione perché si vuole partecipare a questo appuntamento comune insieme. Sarà una bella squadra, noi siamo pronti, ci stiamo preparando, ci sono tanti amici dagli Stati Uniti e non solo che hanno già detto che vogliono venire e partecipare con noi, avremo incontri in videoconferenza, incontri di viso, faremo incontri di vario tipo e naturalmente aspettiamo con ansia di capire a maggior ragione quale sarà la platea dei nostri ragazzi, uomini e donne, che hanno scelto di seguire questa che è una vera battaglia politica corpo a corpo. Giusto una curiosità, ma sarà un master riconosciuto come un master a tutti gli effetti? Dunque, dal punto di vista scientifico-accademico, qui torno nelle mie vesti di docente universitario, il master ha un attestato, cioè l'ambasciata americana attesterà coloro che parteciperanno per tutto il ciclo in maniera naturalmente misurata, perché ecco, su questo siamo molto seri, non si può partecipare ad un numero inferiore diciamo, pressoché tutti gli incontri, tranne uno, forse per malattia, al 90% abbiamo fissato come soglia di appuntamenti, e quindi sarà un attestato valido a tutti i fini di legge gli attestati. Certo, però non è un master classico dal punto di vista accademico, cioè riconosciuto nel circuito della certificazione accademica con i crediti e tutti gli elementi che noi conosciamo delle nostre università, per una sola grande ragione, perché questo avrebbe naturalmente irrigidito ancora di più quello che vuole essere invece un momento in fondo di grande formazione collettiva, professionale, ma devo dire anche però giocosa, e costruita dentro un modello molto dinamico. Quindi noi prevediamo evidentemente innanzitutto 10 appuntamenti, 11 appuntamenti, 12 appuntamenti, cioè una volta al mese, ma sostanzialmente poi sicuramente ce ne saranno molti altri di dentro via via che incomincia a girare la ruota nel momento presidenziale, delle elezioni presidenziali, gli appuntamenti si affastelleranno a partire dai dibattiti notturni, a partire dai momenti topici come l'election night, a partire da grandi confronti e grandi rallies in giro per gli stati degli Stati Uniti. Noi ci saremo, i nostri ragazzi ci saranno, i nostri testimonials e ospiti ci saranno, il mondo dei media seguirà da vicino e noi con loro e tutti insieme proveremo a spiegare agli italiani perché, e a questi studenti a maggior ragione perché, il ciclo politico americano è il ciclo più importante che c'è e oggi a maggior ragione non può non interessare chi come noi guarda ancora una volta la democrazia come unica grande soluzione dentro i modelli complessi delle nostre società. E anche Radio Podus continuerà a seguirlo da vicino il progetto. Sì, sì, anche perché sarà bellissimo continuare a farlo insieme. Ha delineato il sogno di ogni aspirante americanista, quindi ci ha conquistato completamente. È una grande occasione che è stata offerta, io penso, ai nostri giovani più brillanti. Le domande che appunto stiamo ricevendo sono tante, sono belle. Sono delle bellissime argomentazioni che i nostri ragazzi stanno dando per giustificare per in qualche modo la loro voglia di esserci. Questo secondo me è anche un bellissimo segnale di una voglia di politica vera, di una politica fatta, diciamo, sul campo, che dimostra ancora come in fondo la bellezza del fare politica non ha confini e coinvolge evidentemente i giovani senza alcun dubbio, e conferma ancora una volta soprattutto che se i giovani vengono incanalati in un processo che consenta a loro di essere protagonisti dentro la grande ruota della politica anche mondiale e supportati naturalmente dalle istituzioni come in questo caso appunto dall'ambasciata americana e dal centro studi americani, questo può essere semplicemente solo che un'occasione di grande arricchimento professionale anche, oltre che naturalmente passionale, dando, come dire, corda al cuore e soddisfazione al proprio animo. Quindi insomma lo spazio c'è, noi siamo molto felici già in questi 3-4 giorni, insomma da quando il bando è stato lanciato, è a disposizione tutti online, naturalmente sui siti e sui media dell'ambasciata americana, su, evidentemente piano piano adesso si sta diffondendo nelle università attraverso naturalmente i loro social media, oltre che classicamente attraverso le locandine che noi conosciamo, ma naturalmente il tantam dei social media sta funzionando moltissimo e quindi insomma anche grazie alla vostra iniziativa, grazie al vostro diciamo momento che dedicate Radio Potus alle elezioni americane, e si allarga sempre di più la possibilità per i giovani di venire a sapere di questa grande opportunità che per la prima volta dischiude loro anche la possibilità di toccare con mano da vicino, fisicamente, gratuitamente, vorrei sottolineare, la possibilità di vivere da vicino la più bella elezione, più combattuta forse elezione democratica del mondo. Certo professore, la ringraziamo molto e la salutiamo, il professor Francesco Clementi, ricordiamo docente di diritto pubblico comparato all'Università di Perugia.